Sono Ipazia di Alessandria. Sono nella luce con tutta me stessa e ora rimpiango di non aver permesso al mio cuore e al mio corpo di amare altro che il sapere. Io amavo l'umanità, amavo la vita, ma non riuscivo a vedermi moglie e madre. Chi ha cercato di cancellarmi dalla storia ha fallito, poiché ora io sono più presente che mai e ispiro tutte le donne della sorellanza sacra, che vogliono mettere il loro prezioso intelletto a servizio del disegno della vita, che prosegue. È stato ritardato, sì, dal rogo, ma non bloccato. Non è possibile contrastare la vita, poiché la vita ingloba tutto, anche la morte. Ora le mie figlie stanno richiamando in manifestazione la biblioteca di Alessandria che fu bruciata. Il sapere profondo e sacro rimetterà radici nel mondo delle forme e riprenderà a scorrere nel siero acquoso delle cellule, rendendole radianti di vita e di contentezza. Come un bruco che diventa farfalla, come un serpente che cambia la pelle, il processo non sarà indolore. Dovrà essere consumato nel silenzio e nell'isolamento, poiché in questo tempo tutte e tutti coloro che invocheranno il cambiamento saranno più vulnerabili. Nel momento del salto c'è un istante in cui nessuno dei due piedi poggia sul suolo e questo momento di sospensione, di volo, va protetto e agito in solitudine, privatamente. Onore e plauso alle coraggiose donne che senza enfasi né clamore, segretamente, stanno ritessendo con pazienza quotidianamente il tessuto della grande biblioteca che fu il crogiuolo del sapere umano e ancora lo è, sebbene nell'astrale. Io sono tornata e chiamo a me le mie figlie e i miei figli per riprendere da dove si era interrotto il filo dell'umanità, dando inizio a questo lungo periodo di allontanamento dal cuore pulsante del cosmo. Senza sapere non c'è vita. Tutta la creazione è frutto del sapere i veri nomi di ciò che esiste, del saper usare le parole di potere sulla spirale che eternamente si dilata. Ora desidero incoraggiare, anziché diffidare, lo studio sinottico della scienza e dell'arte. Ora so che il sapere non è solo matematica, medicina e astronomia, ma anche poesia e disegno e musica. Grazie alle sorelle che risvegliano la visione della madre, ora vedo perfettamente la ratio della conoscenza in tutte le sue componenti e mi rendo conto che una mente che calcola non è migliore di un piede che danza. Entrambe sono degne e sacre espressioni della vita. Bentornate e bentornati a voi che desiderate riprendere le classi. Per voi oggi, adesso, si riapre il centro studi di Ipazia, la saggia.